L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Buonasera, buonasera, vivo io bene anch'io a tutte e due nonostante quello che sto per dire. Allora, io lo ascolto da tanti anni, penso sempre una cosa: alla zanzara ci vorrebbe una figa figlia di mignotta come a te, Cruzani. Ma Parenzo, però dai, questo signore ha dei problemi, va aiutato. Voglio essere lapidario, lei è una persona simpatica ma è uno scacciafighe. Quando c'è della figa in trasmissione faccia parlare Cruciani, per favore. Se no attaccano, non rispondono più. Allora, Marino se n'è andato, ragazzi, Marino se n'è andato, praticamente è stato dimesso da 26 consiglieri comunali, ci sarà un commissario a Roma, sta dicendo che lui Roma l'ha resa più virtuosa, ma ormai è il passato. Però se ha coraggio faccia i nomi di chi gli ha impedito di fare pulizia, anche ad alti livelli del Partito Democratico. Vedrai non è che si può... lo farà, vedrai no, che lo farà. No. Ragazzi, mettete a posto questo collegamento con Parenzo che non si sente una mazza? Allora, la prima cosa però non è Marino, su cui potete sfogarvi in tutti i modi, ha fatto bene, ha fatto male, chi ha perso, chi ha vinto, ma ormai da oggi è il passato. Ma il primo personaggio del giorno è quello che io voglio governatore del pianeta, governatore del mondo. Cioè, ragazzi, è facile, Chi è che voglio governatore del mondo io? Vincenzo De Luca, che per il momento è solo governatore della Campania. Sentite cosa dice di questa polemica sulla carne, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera, eccetera. Quelli che dicono che sarà possibile fra poco mangiare gli insetti, le cavallette, eccetera, eccetera. De Luca forever. Per il resto poi non bisogna esagerare, la carne è cancerogena, la mozzarella, la diossina, il caffè fa male, la pizza bruciata fa male, decidiamo di fare i fakiri, diamoci alla contemplazione, dobbiamo pure campare. Stupendo, stupendo, decidiamo di fare i fakiri. Ancora, ancora. Ho visto che anche delle zozzerie varie... Capisco che c'è anche un dato culturale, ovviamente, gente che è abituata a vivere di queste cose, anche gli insetti contengono proteine, per l'amor di Dio, però penso qui intervengono ragioni perfino estetiche, diciamo. I ragni, magnateli voi, insomma, a me. Noi manteniamoci il nostro ragù con tutto lo spippamento del ragù, diciamo, che dura ore. E come si vede si vive a lungo, molto a lungo. Ma il massimo, il governatore, il prossimo governatore del mondo, attuale governatore solo della Campania, lo dà su un esponente della minoranza del Partito Democratico che si chiama Miguel Gotor, il quale aveva avanzato delle piccole critiche quando lui ha attaccato Rosi Bindi. Devo dire che l'unico momento veramente di emozione, di commozione forte che ho avuto e me lo ha determinato uno di quelli che hanno sofferto molto, tale Miguel Gotor. Io pensavo sinceramente che fosse un ballerino di flamenco, un tanghero, E beh, poi mi hanno detto che era un parlamentare questo. È quello che ha lanciato per aria il grido di dolore più straziante, Gotor. Un grido di dolore che si è diffuso, diciamo, per le valli dell'Appennino emiliano, di porcilaia in porcilaia. Vabbè, mi hanno detto che vuole dichiararsi prigioniero politico. Vada a lui tutta la nostra solidarietà e la nostra cristiana comprensione, ovviamente. David, ma è veramente il numero uno. È un genio. Ma, un genio, ma perché assoluto. Secondo me, tra l'altro, ma ormai scrive? No, ormai Crozza. Imita Crozza. No, ma ormai lui lo imita, siccome è talmente, cioè, lo ha anche Crozza lo ha amplificato. Imita no, Crozza. Questo è geniale, questo è più del ragù. Più del ragù questo. Gotone è una cosa epica. Allora, Roberto D'Agostino, cioè D'Agospia, dice la sua sul licenziamento di Marino. Cioè, alla fine chi è che ha licenziato Marino? Sì, certo, Renzi, anche la Zanzara col suo scherzo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto il Papa. A un certo punto Marino riceve il cellulare del Papa, no? E lui che fa? Lo chiamo ogni 5 minuti. Tutti i giorni, quello ha fatto, oh, ma chi è questa rottura? Sì, cioè Marino chiamava continuamente il Papa? Certo, tutti i giorni, perché io faceva, poi faceva domani, faceva come va la salute, come stai, quello dai che si grattava. Quindi lo stalking telefonico di Marino so sul però Papa. C'ha uno scopo però, quella che lui voleva diventare il medico curante del Papa. Ah, perché lui già all'epoca Pappalardo è molto ben introdotto con i vari cardinali e preti, gemelli e compagnia varia. Quindi adesso Papa dirà, speriamo di essersi liberati per sempre di questo sindaco. Ma quello vedrà che gli spunterà da tutte le parti. Ragazzi, per concludere, io voglio farvi ascoltare una cosa incredibile a proposito sempre di questi vegetariani, vegani che ci fanno due coglioni così sul fatto che loro sono più belli, più grandi, più intelligenti, più virtuosi e noi invece che siamo ancora carnivori e che naturalmente dobbiamo fare attenzione come in tutte le cose del mondo, perché tra l'altro l'OMS oggi si è anche un po' ritrattato dicendo beh, non è poi così grave. No, ma il consumo. Per me l'accusa più grave è quella di impotenza, quella che mi manda più in bestia, che fanno gli amici vegan. Sì, ma lo sai che la nuova cosa dell'OMS qual è? Che andare in motorino d'inverno senza la sciarpa a torso nudo fa venire il mal di gola. Questa è la nuova cosa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ci voleva l'OMS però, no, diciamo. Ma l'ultima cosa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, no, dopo ma quella della carne, avere una brava nonnina, una brava no, mamma, ma ti giuro, casa. Hanno detto oggi che andare in motorino d'inverno senza sciarpa a torso nudo fa venire il mal di gola. Nuova cosa grandissima, nuova inchiesta. Beh, nuova ricerca dell'OMS. Certo, ci voleva l'OMS per questo. Allora vi faccio ascoltare una roba. È incredibile. È Paola Maugeri, che è una conosciuta, una DJ, come si dice? No, una speaker, non so che cazzo fa. Paola Maugeri dice che i gorilla, la giraffa e il toro sono tutti vegani. Vi giuro, è una cosa incredibile. Sentite. Le proteine sono in ogni cosa che cresce. Ti sembro una che non si regge in piedi? Chiedi al gorilla, alla giraffa, al toro, al rinoceronte, al cervo come riescono a stare in piedi. Eppure sono i animali più grandi del mondo e sono tutti assolutamente erbivori e vegani. Cioè, nessuno ha dato dei vegani ai gorilla, alla giraffa e al toro. Cioè, sarebbero vegani. Ora, porca la puttana Eva, io dico, vegani cazzo! Il toro non è vegano, è il toro! È il toro, non è vegano il toro! Non è possibile, non ci credo. Anche se qualcuno mi dice che è vegano, non ci credo. Nessuno ha mai detto che il toro è vegano. Nessuno ha mai detto, il gorilla. Tu hai mai sentito che il gorilla è vegano, Parenzo? No, ma contro tutte le leggi della teologia. No, ma io aspetta, qualcuno ha mai detto che il gorilla è vegano? Non ci posso credere, erbivoro è vegano. Perché? A massimo erbivoro, ma non vegano. Ma sarebbe come dire che la giraffa divento è buddista. Pazzo, guarda, senti che cosa fa con i topi e con le zanzare questa qua. Cioè, senti cosa fa con i topi e con le zanzare. Tu quando hai un topo a casa tua, che fai? Cioè, ma quando hai un topo... Ma io lo sopprimo immediatamente, ma allora, ho paura. E con le zanzare che fai quando ce l'hai intorno e non c'hai l'autan e non c'hai, che cosa fai? Ma le schiacci, dire, no? Se ti rompono i coglioni, no? La persona normale fa così, le persone normali. Le persone invece dai che sennò poi mi becco una querela. Che considerazione ha lei di un topo o di una zanzara? Sono esseri senzienti anche quelli? Per me. Cioè lei si trova un topo in casa, cosa fa con questo topo? Lo invito ad uscire. Ah, E se c'è un'infestazione di topi? Non mi è mai capitato, però inviterò tutta la colonia di topi a uscire da casa mia. Perché evidentemente abitando in città non si trova in situazioni che... Probabilmente, però voglio dire... E le zanzare? Le zanzare non le ammazzo. Ma ragazzi, non ce la faccio, non ce la posso fare. L'invito a uscire non ce la posso, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Signor topo, signor topo, vuole per caso uscire da questa casa? Vuole per caso uscire insieme ai suoi amici topi? In carovana volete uscire? Amica mia, ma non funziona così, i topi non è che rispondono ai tuoi comandi. Ma dove cazzo hai vissuto fino adesso? Dove cazzo hai vissuto? Alba, aiutami tu, aiutami tu! Spacco, voglio spaccare lo studio! Oggi spacco lo studio! Spacco lo studio! Mi piace l'idea che tu non sopporti l'idea che il toro e il gorilla possono essere vegani. No, ma voglio spaccare tutto, ti giuro, guarda, sono qua, spacco tutto! Però, guarda, io ti do un'informazione, che mia madre, che non era vegana, perché all'epoca non si parlava di vegani o meno, i topi che gli portava il gatto, lei li nutriva e se li teneva, pensa un po'. Vabbè, però ho capito, però cacciava, non era malata pure tu, nonna, scusa, perché so chi era, era malata pure lei. No, perché lei, avendo un grande nutriva amore, i topi. Cioè, scusa, nutriva... sono vegani e cacciano i topi, ma se uno è un vegano ama così tanto gli animali. No, l'invita a uscire, l'invita a uscire. No, l'invita a uscire, se li tiene in casa e gli dà anche un po' di formaggio. Facciamo come mia madre, che il gatto del poveretto, sai che il gatto porta il topo per sì, premio, per farti vedere, per riconoscenza, mezzo tramortito, mia madre lo metteva in una cuccetta, lo faceva rinsavire, cioè lo ribetteva in piedi, lo nutriva il gatto incazzato nero e poi Beh, scusa, però anche là non c'era l'impresso. Con tutto il rispetto, non c'era normalità anche in questa cosa qua, nutrire il topo. Scusami se te lo dico, fa più simpatia a mia madre che gli faceva il pronto soccorso e che la vegana che ti dice che lo invita a uscire. Ma scusa, ma lo salvi per mandarlo fuori di casa? Non è educazione, come non è educazione, cioè le zanzare che facciamo a Milano 3, guarda, se la signora viene a Milano 3, non so chi è, se viene a Milano 3 lì si troverà benissimo, perché tra Basilio e Milano 3 tutte le zanzare che vuole. Appunto, però, che fa? Ma che fai? Scusa, non le ammazzi? Che fai? Ti lasci divorare dalle zanzare? Se non le ammazzi, cosa fai? Fermi tutti che c'è... Io ho fatto un patto con le zanzare, mordono solo i miei, diciamo, ospiti. Ma è un gentleman agreement, hai capito? E voglio dire, basta mettersi d'accordo. Io mi sono messo d'accordo anche tu, con però le zanzare. Non ci si può mettere d'accordo con le zanzare. Fermala. Io invito a cena la gente per dar da mangiare alle zanzare d'estate. Mamma mia, pure te sei messa male. Traffico, aspetta. Il traffico è il problema. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Davide, vi voglio bene. Ragazzi, oggi mi devo calmare perché ne sento tante. Ah, a proposito, Parenzo, nuovo allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nuovo allarme. Pasta e fagioli fanno scorreggiare. Nuovo allarme. Detta proprio così. Ci sono due cose oggi dell'OMS nuove. Pasta e fagioli fanno scorreggiare. E un'altra cosa, che andare in motorino d'inverno, lo ripeto, questa è veramente una cosa nuova che è uscita adesso, una ricerca nuova che hanno fatto coinvolgendo 50 scienziati. Andare in motorino d'inverno senza la sciarpa e a torso nudo fa venire mal di gola. Grande novità dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver detto che la carne forse in grandi quantità fa male, eccetera, eccetera. Fermateli. È incredibile, incredibile. Allora, abbiamo Alba Parietti con noi. Devo chiedere una cosa ad Alba. Scusa, visto che tu tocchi i temi seri, ogni tanto mi viene da dire qualcosa di serio anche a me. La carne è anche una questione di allevamenti, e ci sono degli allevamenti che sono veramente un abuso, un sopruso nei confronti sia degli animali, sia per il modo in cui vengono nutriti e poi uccisi, ovviamente anche per noi. Cioè, è chiaro che se un animale vive in quelle condizioni, mangia in quel modo e ha una vita così infernale a cui si condanna, è inevitabile che poi faccia venire il cancro a chi lo mangia, ed è anche giusto, perché poveretto ha vissuto una vita talmente infelice che sarebbe il minimo, voglio dire, però su questo non ci tutela nessuno. Non è questione, secondo me, di carne rossa o bianca, è questione di come vengono fatti questi allevamenti. Senti una cosa, ma tu in campagna non è una, dove vivi? No, io Basilio, ecco, appunto, non hai una pistola? Non hai le armi per difenderti dai ladri? No, perché non ne prendi una tipo Buonanno? No, quel gesto lì l'ho trovato veramente insano, nel senso che non si può, cioè, allora Bonanno a me è anche simpatico, nel senso che è un simpatico politico da bar, però veramente bisogna smettere di pensare che si possono fare i ragionamenti e i discorsi da bar dello sport dopo che si è alzato il gomito, cioè nel senso che quello che ha fatto lui lo può fare uno al bar dopo che ha bevuto molto in mezzo agli amici, non lo può fare un politico, i politici devono cominciare a rappresentare. Invece... la definizione è perfetta, perché politico da bar, io dico da circo, ad esempio Bonanno va benissimo quando ad esempio salta nel cerchio di fuoco, lì è meraviglioso perché è molto bravo, c'è questo cerchio di fuoco. Gli avete dato del circense e dell'ubriacone, dai, su. Ma non si può, cioè, posso dirti una cosa, quello è si chiama istigazione a delinquere, cioè voglio dire, che non istigazione è a delinquere, un termine dai, proprio su. Tecnico e pratico. Però dire. Senti Alba, io voglio capire una cosa, invece il signore che è andato in tutte le televisioni, tu che sei un'attenta osservatrice della televisione, quello là che ha subito il tentativo di furto e poi ha ammazzato l'albanese, hai visto incazzato come una belva, no? Contro tutto e tutti, che ti è sembrato un po' esagitato? Ma il signor... delle televisioni siamo sempre lì, cioè siamo davanti a una televisione che invita i parenti delle vittime, le paga e le indottrina su che cosa devono dire. L'Adurso, dici, cioè, L'Adurso. Ma senza fare nomi, voglio dire, è lei che è accusata delle prove, cioè qui voglio dire stiamo passando, cioè la televisione fa bellamente, perché anche il gesto di Bonanno secondo me ma è normale penale, che invitino queste persone, scusa. Allora io quello che ti voglio dire, il discorso è molto semplice, qui si perde il confine tra quello che si può e non si può fare, tra quello che chi fa televisione, chi fa politica può o non può dire, cioè e tutti siamo abituati talmente a tutto, scusami, fammi dire una cosa che è veramente importante, che oramai nessuno si meraviglia più di niente, per cui poi passano bellamente, cioè ponti che crollano, persone che vengono arrestate mentre devono fare la legge sulla legalità, cioè si occupano di legalità e vengono arrestati per truffa. E si ride, no, però scusami un attimo, Alba, dimmi allora, siccome la D'Urso è stata accusata di avere pagato le interviste alla famiglia di un famoso caso in Sicilia, no? Sì. E anche di avere in parte indotto le persone a dire in televisione certe cose, per te questo questa cosa che ho letto e come l'hai per letto te che tu? Cos'è questa roba? Per te che e cos'è? Si chiama inquinamento delle prove a casa mia, cioè a casa mia si chiama inquinamento delle prove. Dopodiché e che dovrebbero non è che fare? Tirare giù la Claire, chiudere? Dovrebbe chiudere? Dovrebbe chiudere o no? Dovrebbe chiudere baracche burattini, allora. No, questo non lo dirò mai. Io voglio dire che se c'è gente che non so se la D'Urso l'ha fatto, io l'ho letto come l'hai letto. L'accusa tu. È rivolta alla trasmissione della D'Urso. Non gliel'ho visto fare, non l'ho semplicemente sentito. No, ci sono delle intercettazioni. Tu, anche dalla tua amica Lucarelli. Voglio dire, l'abbiamo letto e sentito così come l'ha detto chi l'ha visto. Se queste cose sono vere, e bisogna accertare che siano vere, francamente si chiama inquinamento delle prove. E dunque chiudere tutto. Chiudere ma io non tutto. Faccio chiudere questo, il discorso è questo, in Italia bisognerebbe chiudere tutto in generale, chiudere con la politica, chiudere con la televisione, bisognerebbe dire che la televisione andiamo tutti a casa, sano, se vogliamo un paese serio dove che la gente fare? Comincia a pagare le tasse, fare le cose serie, credere nella sanità. No, deve cominciare da mezzi di comunicazione e soprattutto da chi ci rappresenta, perché come un politico non può andare in televisione con la pistola in mano, perché siamo alla follia, questa è follia, non siamo una cosa su cui si può scherzare, è un reato quello, cioè i politici Alba, devono fare discorsi da bar e i televisivi non devono fare, gli investigatori... messaggio alla D'Urso? Messaggio alla D'Urso. Ma è così, lo stai dicendo tu. Ma io quello che voglio dire è che sia la D'Urso, che sia qualsiasi altro tipo di televisione che fa questo tipo di inquinamento delle prove. Si chiama inquinamento delle prove. Ferma. 183 giorni, 141 padiglioni, milioni di visitatori da tutto il mondo. Segui lo speciale di Radio 24 su Expo Milano 2015 con i nostri inviati e le voci dei protagonisti. Una diretta di 2 ore per vivere da vicino la giornata di chiusura dell'Esposizione Universale e tirare le somme dei 6 mesi più discussi del 2015. Sabato 31 dalle 18 alle 20 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. I said the Joker is the one. di sotto sei un leccaculo e mi dispiace. Sei un leccaculo e ridi, però non sai che dire. Adesso chiudimi il telefono in faccia perché sono un pazzo, dai. Sulla questione Marino, il Partito Democratico deve avere anche il coraggio di dire una cosa. Le due inchieste che si sono aperte su Marino non c'entrano nulla, perché da questo punto di vista c'è anche un governatore del Partito Democratico condannato in primo grado, il signor De Luca, che per carità io voglio governatore del mondo, ma è pur sempre condannato, pur sempre condannato in primo grado. Qui abbiamo due indagini su Marino, una sugli scontrini, un'altra sulla sua Onlus, ma questa roba qui non è che può essere fondamentale, cioè non può essere utilizzata come scusa per farlo fuori. La questione è solo politica, cioè a Renzi stava sulle palle Marino, probabilmente secondo Renzi Marino faceva perdere voti al Partito Democratico a Roma, e allora dopo la vicenda del Papa, per carità Marino si è messo nei guai anche da solo, dopo la vicenda del Papa hanno deciso di farlo fuori, punto e basta. Cioè non è che la questione delle indagini, gli scontrini e questa roba qui, bisogna essere chiari su questo, eh. Altra cosa, mi sta profondamente sulle palle, Parenzo, il fatto che il Vaticano oggi, attraverso uno dei suoi, non so se osservatore o non so se qua è, dica che è una vicenda che sta diventando una farsa, questo prima della, delle dimissioni di 26 consigli. Ma loro hanno il giubileo, vecchio mio, che devi fare? No, ma non mi interessa, non mi interessa. No, ma loro hanno questa paura, questa roba. Ma non mi interessa, la devono smettere di rompere le balle, di decidere chi governa Roma. Beh, il peggiore vecchio, di sempre. Lo so, qualcuno però ha detto il peggiore di sempre, non mi ricordo chi, quale cardinale ha detto l'amministrazione peggiore di sempre. Una vicenda che sta diventando farsa. Ma sono cazzi nostri chi governa Roma, ma sono cazzi dei romani. È strano, perché anche questa è una roba nuova, non si era mai verificato in 60-80 anni di 60 anni di storia repubblicana. Male. Era successo che il Vaticano alzasse così la voce, mai. Poi per carità, non voglio essere dietrologico, ma ti pare normale che il PD vuole fare fuori Marino e spuntano come funghi delle inchieste? Ora, per carità, Marino si è messo nei guai per questa storia degli scontrini, si è messo nei guai con cose passate sue, tutte piccole, roba piccolissima, ma come all'improvviso, siccome il PD non vuole più Renzi, o comunque la maggioranza renziana del PD non vuole più Renzi, arriva l'attacco, le indagini eccetera eccetera, molti dubbi, ho molti dubbi. Comunque ragazzi, la sentenza definitiva è anche quella di Sgarbi, la sentenza sgarbiana su Marino, È stato licenziato dal Papa, il quale ha detto: io non ho invitato il sindaco Ignazio Marino, chiaro, fine, non c'è un'altra decisa, è quella. Renzi non aveva la forza di farlo dimettere, ci ha pensato il Papa, che è il vero governatore della città per il giubileo. Il giubileo non può avere governatore Marino. Splendido scontro poi tra il professore Massimo Vittorio Sgarbi e due assessori, Sabella ed Esposito, ma soprattutto con Sabella, da oggi non più assessori. Allora, ricordo sì, all'onorevole Sgarbi, non so che cosa sia in questo momento. Io sono Vittorio Sgarbi! E lei dice delle bugie perfino sul punto. L'immunità non c'è più. Non dica parole che non sa. C'è l'insindacabilità. Sì, io non ho l'immunità. Allora, non ce l'ha più nessuno. Impari la legge. Vittorio, perché ti devi arrabbiare così? Hai detto no, la tua opinione? Io non so cosa sia. Lui ha detto poc'anzi: l'immunità non ce l'ho. Non c'è più. Non ce l'ha nessuno. Va bene, bugiardo. Chiaro. Sabella. Ma ha dato del bugiardo? Certo. Ok. Vorrei ricordare a Sgarbi, Vittorio Sgarbi, che il sottoscritto è l'uomo che a Palermo, sulla sua pelle, ha arrestato Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca, Pietro Aglieri. No, non faccia così, è gente che ha ammazzato le persone, Sgarbi! Hanno ammazzato persone! Qua come assessore! Non ti permetta per la dignità dei morti! E lei ha detto, io l'immunità non ce l'ho! Per cortesia! E a Roma sei sparato ieri! Sei sparato ieri con due ragazzi ammazzati, ieri! Io e l'altro che la ostia si è sparata ancora voi che avete inventato la mafia dove non c'è. Allora devo dire la verità, ha ragione Sgarbi. perché Sabella continua a ripetere in molte trasmissioni televisive che lui, e non solo trasmissioni televisive, dappertutto, che lui è quello che ha fatto arrestare Brusca. Posso dire una cosa? No, ma posso dire una cosa? Ma chi se ne frega? Va benissimo, va riconosciuto tutto quello che vuoi, ma a noi non ce ne frega una mazza che lui abbia arrestato Brusca. Vogliamo sapere i risultati dell'amministrazione comunale. No, non ce ne frega. Dice, come dire, che il suo lavoro lui, come dire, si sente prestato alla politica. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Uno deve amministrare bene Roma. Se ti senti prestato alla politica, non lo fai. Se ti senti inadeguato, non lo fai. Cioè, perché uno deve... Io ho arrestato Brusca. E vabbè, d'accordo, hai arrestato Brusca, amico mio. Adesso fai l'assessore a Roma alla legalità. L'hanno chiamato perché ma come no, uomo ho capito. Di legge, di diritto, eccetera. Come ma ha ragione Vittorio. Ma noi che ce ne importa che ha arrestato Brusca? Cioè, ogni volta viene ripetuta questa cosa. Anche oggi l'ha ridetto. A un certo punto ha detto, più facile... Non si sentiva. A un certo punto Sabella anche però si è inferocito, mi pare. Sì, perché quello gli ha dato del bugiardo, perché quello ha detto... Vabbè, ho capito, sono ma Sgarbi, morte delle persone, cosa ha detto? Ma sono morte delle persone perché questi qua hanno ammazzato delle persone. E vabbè, lo sappiamo, sei bravo, hai arrestato Brusca. Ma noi che hai arrestato Brusca non ce ne frega niente. Non è che chi ha arrestato Brusca è capace anche di fare l'assessore. Anche se molti mi dicono che è stato un buon assessore. Può essere anche di sì, invece, perché... Ma ho capito, dire... certo che può essere di sì, ma non è detto, cioè non è detto. Comunque, Sgarbi dice anche un'altra cosa. Sabella e Esposito, due assessori che oggi hanno terminato il loro mandato, ora in TV invece di fare gli assessori. Le due facce di Sabella Esposito le ho viste per ore e ore e ore esposte in tutte le trasmissioni, invece che fare gli assessori a raccontare che l'avrebbero fatto e che oggi non lo fanno più. La dignità etica che loro evocano è contraddetta dal loro comportamento, sia rispetto a Marino, sia rispetto all'incertezza del loro giudizio su di lui, oggi la delusione, i loro umori interiori non mi interessano, facciano gli assessori. Ha perfettamente ragione, io lo dico da tempo, soprattutto con riferimento a Sabella, però il problema è un altro, è che anche Vittorio quando faceva, come dire, quando fa adesso l'assessore Urbino, quando faceva il sindaco a Salemi, non è che era presente, non è che era assente dalla televisione Vittorione, è vero anche che delegava e lui poi l'ha detto prima, è Vittorio Sgarbi e tu non sei un cazzo, questo voleva dire, però anche lui non era presente ogni volta a fare il sindaco e a fare l'assessore, mentre stava in televisione lo stesso. Roberto da Roma, vai! Roberto? Pronto? Dai, dimmi, dai, forza! Ciao Giuseppe, buonasera, ciao David. Mi senti? Dai, vai! Ecco, ti volevo dire, io penso che tu in questo momento stia facendo esattamente quello che sta facendo l'OMS. Sei un vegano dell'informazione. Sì. Ci hai detto le stesse cose che sta dicendo l'OMS. Nell'ultimo mese ci hai raccontato che Io non ho raccontato niente, non ho fatto nessun annuncio, amico mio. Hai detto che se utilizzi Rai 2, il secondo canale, anche se sei protetto, rischi l'orchite. Ah, è vero, hai ragione. Se non soffri di eiaculazione precoce, una volta era un vanto, io mi vantavo di durare qualche minuto in più rispetto agli altri. Se non soffri di eiaculazione precoce, cancro alla prostata. Altra cosa, sì, è vero. Se sei amante del cunilingus, attenzione. Sì. Io addirittura amo anche l'anilingus, ma lì cancro alla bocca non te lo leva nessuno. È vero, hai ragione Roberto. Ho fatto terrorismo mediatico. Terrorismo mediatico. Sei un vegano dell'informazione, ti stai comportando esattamente come la Maugeri. Stessa identica cosa. Non mi dire così. L'altro giorno quel ragazzo che si è rimorchiata una in discoteca per poi scoprire che era un travestito, gli ha fatto un pompino e tu hai detto sei un malato, vai in analisi. Cioè, io non lo so che cosa. Adesso facciamo una cosa, Giuseppe, mettiamo anche sui preservativi la foto con scritto attenzione, fa trombare, nuoce gravemente alla salute, perché ormai siamo arrivati a questo livello. Io credo che l'OMS andrà avanti su questa campagna proponendo cose nuove. La cosa di oggi è abbastanza rivoluzionaria, cioè sostengono in sostanza, dopo una ricerca, ripeto, per l'ennesima volta, di 100 scienziati, che andare in motorino senza sciarpa e a torso nude può fare venire il raffreddore, anzi fa venire il raffreddore, non può, fa venire il raffreddore. Sono arrivati a questa conclusione. Anche trombare fa male, questa è l'ultima novità. Adesso, questo ci stanno lavorando. Maria da Fermo. Salve, Maria. Buonasera. Dimmi. Senti, io ho trovato molto strana quella concomitanza tra la dichiarazione dell'OMS sulla possibile cancerosità della carne rossa e l'introduzione, l'approvazione con la delibera da parte dell'Unione Europea degli insetti come alimento per la nostra alimentazione. Insomma. Guardi, nessuno ci obbligherà per fortuna a mangiare insetti, a mangiare ragni, a mangiare cavallette. Anche questo fatto può mettere in ginocchio un'economia. Perché ma non mette in ginocchio, per fortuna non mette. Io ho visto in questi giorni nella macelleria non c'è più nessuno. Ma non è vero, signora, che nella macelleria non c'è io più nessuno. Ho notato questo, però certamente sono casi e casi, però i macellai dicono che ci sta questa tendenza, insomma, la gente molto più prudente, però non è strano tutto questo? Voglio dire, cercano di introdurre questi insetti nell'alimentazione e noi ci fa. Ma non cercano di introdurre nessuno, niente, non si preoccupi, non arriverà a mangiare le cavallette, non troverà al posto del macellaio il venditore di cavallette, il venditore di topi, il venditore di non so che cosa. Non vinceranno, non passeranno questi qua che pensano che noi siamo tutti dei poveri stronzi, perché alla fine questi vegetariani, vegani e tutte le declinazioni varie del neopuritanesimo di oggi pensano che la gente che continua a mangiare carne distrugga il mondo, cioè pensa che io, quello che sta dietro il vetro qui, l'amico Chiappini, Parenzo, siamo tutti dei malati mentali, siamo tutti degli ignoranti, stiamo distruggendo questo pianeta, stiamo scavando la fossa ai nostri figli. Ma non vinceranno, perché queste sono tutte puttanate. Somaro che non sei altro tu, se tu sei somaro senza la co... State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. Io prego di tuo signore, ti prego, converti Luciani affinché creda nelle tue parole, in quello che tu hai detto, l'amore. Allora, io ho bisogno della mia dose quotidiana, non di droga, dose quotidiana, Parenzo, lo sai di chi, no? Di siciliano. Speravo di De Luca. De Luca ho già dato, il governatore del mondo l'ho già portato sugli altari con quello che ha detto a proposito della carne, su Rosi Bindi, su Miguel Gotor, però ho bisogno della dose quotidiana di siciliano. Io proverei a chiamarlo a casa, lo sai, il dottor siciliano? Il prossimo presidente della Repubblica. Sì, risponde a casa, risponde, solo che purtroppo prossimo presidente della Repubblica. Sì, prossimo presidente della Repubblica siciliano, quello che ha ammazzato il ladro romeno che stava per entrare in casa sua e che a mio parere dovrebbe essere scagionato, doveva già essere scagionato prima. Ma al di là di quello che ha detto, anche se ha mentito, dovesse avere mentito ai carabinieri, alla polizia, perché magari impaurito e magari ha detto ero dentro casa, oppure ho sparato alle gambe, invece ha sparato sul petto e al cuore fuori da casa, dovrebbe essere scagionato, perché uno ha il diritto di mentire, perché mentendo ti puoi salvare. Se invece dici tutta la verità, vieni indagato lo stesso e vieni incriminato lo stesso. E dunque, per paura di finire nel calvario giudiziario, nel tritacarne giudiziario, menti. Allora, io proverei a chiamarlo a casa, siciliano, eh. Sì, pronto. Siciliano? Sì. Salve, buonasera, sono Cruciani. Guardi, io ho molta stima di lei, però guardi, mi creda, non è il momento adesso di aggiungere altro. No, ma volevo sentirla solamente per 5 minuti, non è che le rubo di più. Guardi, io non dormo più di notte, sto passando un periodaccio, riesco a dormire quando si alza il sole, che vedo la luce, e poi il pomeriggio un'oretta e mezza. L'avvocato della famiglia albanese ha chiesto la perizia psichiatrica, è questo che ero curioso di sapere. Ma guardi, io se il magistrato decide io vado. Io la farei forse a tanta gente che va in televisione prima di andarci la perizia psichiatrica. Io fino a quella sera lì, guardi, vivevo tranquillo, nessuno mi conosceva, stavo così bene. Adesso sì, è diventato un inferno, un incubo. La famiglia, una sola cosa, la famiglia di quel ragazzo che è morto, no? Dice che lui era un ladro, però non doveva morire, cioè che è più grave quello che ha fatto lei. Lei faccia una cosa, guardi, io non voglio commentare, perché penso che per la famiglia di questo ragazzo sia anche per loro un dramma. Qui siamo due famiglie in un dramma. Se lei prende, me l'ha portato mio consuocero, sì, il giornale sì, di Treviglio, questo sì, bravo ragazzo qui. È stato, mi pare, 18-19 anni, faceva parte di una racca di prostituzione, cioè non era proprio così bravo sto ragazzo, però poi sa, per le mamme sono tutti bravi, cosa vuole che... Cioè la famiglia non si può commentare quello che dice una famiglia. Ma no, ma la famiglia, guardi, penso che tutti quanti amiamo i nostri figli, poi purtroppo cosa vuol fare? Se il destino è stato così infame, cosa vuole che le dica? Però le posso assicurare che le forze dell'ordine stanno facendo molto, molto. Da quando si sono mossi i bacchi nella nostra zona non c'è più tanta gente, ma la colpa non è la loro. Da soli non ce la fanno, ci vuole l'aiuto dell'esercito, non c'è niente da fare. L'esercito a protezione, no, delle case? L'esercito, ma non inteso come poi lo girano, lo fanno a colpo di... No, l'esercito già c'è. L'esercito serve da deterrente, perché poi quando avrò modo di avere un'intervista di mezz'ora, un'ora, due ore, dirò la mia, perché ho diritto di dirla, capito? Ho pestato due notti prima di dire qualche cosa, capisce? È caduta la linea, è il caso di richiamarlo secondo te? No, eh? No, direi no. No. Allora ragazzi, 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo a Marco Lecce, vai. Uè, ma io in Cruciani, che cazzo... Dimmi. Fai sempre a parlare stai cazzate, tranquillo, cazzate. Stai tranquillo, cosa... Comunque, vuoi dire? Cosa sì, vuoi dire? Siamo rovinati anche proprio perché spari cazzate. Però ogni tanto, cazzo, sto stato di merda, sto nord che praticamente ce l'ha in tutti i modi nei confronti del sud, ogni tanto ricordiamo sto carogna di stato italiano, cosa cazzo sta combinando in questi giorni a sud Italia. Cioè il sud Italia... No, non ho capito, situazione... che è successo? Non ho capito, scusami, non ho capito. Il sud Italia praticamente in questi giorni versa in una situazione tremenda. Ma il sud Italia è una vita che versa in una... Ma che stai dicendo? È una vita che versa in, sì, situazione tremenda, come dici tu. Allora, ma di che parli? Messina, di cosa stai parlando? Abbandonato. Messina sono... Messina è una vergogna, ma la vergogna è di come, di chi organizza il territorio a Messina. Sì, a Roma. Mo a Messina non c'è l'acqua, la colpa è di Roma. Ma dai, su. Ma no, e giustamente il primo intervento dovrebbe arrivare da Roma. Non è possibile aspettare sei giorni per far scoppiare lo scandalo. Ora poi ci saranno sul territorio delle cazzo di responsabilità oggettive del singolo. Marco, o di più il problema è di chi amministra. Giorni non si può dimenticare. Lo Stato italiano, ma lo Stato italiano vi ha dato talmente tanti soldi al sud che dovete stare zitti per una vita, dai, su. Ma sta per finire un Expo che praticamente... Vabbè, ma Marco, che vuoi? Non ho capito che vuoi. Io voglio ricordarti ogni tanto di parlare del sud, di parlare del... Non ti preoccupare, io non devo parlare in termini razzisti. Ma io non devo parlare di niente, io parlo di quello che mi pare, capito, Marco? Non devo parlare del sud. Parliamo del nord, di questo nord giustamente che continua a rubare, a rubacciare. Adesso insieme al nord poi a Roma, noi siamo messi insieme, sono i due soci, e quindi praticamente adesso cosa succede? Che questi due signori, Roma e Milano, questi due signorotti, continuano, sì, a lucrare ancora sul sud. Prima era soltanto il nord che lucrava sul sud, adesso è giunto anche Roma, mangia, sì, mangia. Quindi cosa dovete mangiare ancora delle vostre vite? Vabbè. Sì, certo, cosa dovete mangiare, Marco, ancora? Marco, che sei un neoborbonico. Cosa sei? Certo, sei. Noi ci... Ma non è certo, tanto, cioè, ma non è certo, amico mio, non è... Se uno dice sono neoborbonico, la risposta non è certo, no, perché non è normale, capito? Essere neoborbonici, bisogna essere non un po' normale, non è normale. Certo, ma non lo so, quello magari no, anche quello non è normale. Ecco, anche quello appunto, non sarà normale, appunto. Ma essere neoborbonici ti assicuro che è peggio. Cioè, guarda che arrivo quasi a dire che è più normale essere vegani che neoborbonici. Esatto, bravo, assolutamente, sì, potrebbe anche così. Potrebbe essere così, io non lo so, sono incerto. Almeno uno dice lei che cos'è, vegano, dice vabbè, non mangia gli animali. Sì, esatto, mangia... Invece che sei tu, sono neoborbonico. Ma di che stai... Ecco, questo per me è un po' più, la rispetto, fino a quando uno non mi rompe i coglioni, ma è un po' una stranezza, se lo faccio dire con grande affetto però. Sì, assolutamente. Guarda, ma perché non mi inviti? Invitami, no, la trasmissione. Ma dove? Ma perché che stai facendo? Ma perché non stai parlando? No, no, ma magari invitami così ragioniamo su argomenti. Che adesso tu tra un po' mi chiudi, no? Quindi non mi dai. Ma che vuoi stare un'ora e mezza in trasmissione? Non ho capito. Vuoi stare un'ora e mezza in trasmissione? Male non sarebbe, visto che sono 154 anni che continuate a rompere le palle. Un minuto, due minuti, un'ora e mezza non sarebbe male. Mi erano 154 anni. Vabbè, ciao amico mio. Ciao. We'll be right back. grande iniziativa della Zanzara è un'altra, e me l'ha suggerita l'amico Paolo Ruffini. Sai che cosa sto per lanciare, no? Lo so, sai, perché l'ho letto nella chat. Esatto. Allora, però Paolo, non volevo Ruffini... crederci, cioè, mentre leggevo. Sì. Volevo crederci. E invece in realtà, allora, Paolo Ruffini lancia. Allora, aspetta, però fermati, ti faccio sentire una cosa. Per anticipare quello che tu stai per lanciare, sì, la sigla, sì, vediamo se si sente, ma penso che si dovrebbe essere questo. Sei pronto? Qual è? Sì, però fammela sentire bene. Cioè, hai tirato la catena del cesso, non ho capito. Sì, esatto. Hai tirato la catena del cesso. Ma tu da dove stai trasmettendo? Scusami, dal cesso di casa tua? Sì. Dal cesso di casa tua. Cioè, Parenzo trasmette dal cesso di casa sua. Comunque, la grande iniziativa, Zanzara, Paolo Ruffini. La differenza tra la radio e la televisione è questa qui. Sì, assolutamente. Avrei potuto anche mentire e dirti dal mio ufficio. No, però... eri in cerchio, ma che stai facendo? La cacca? Stavi cagando o stavi pisciando? No, prima sono andato apposta per ma che cosa facevi? No, ma d'accordo, ma che hai fatto? Hai cagato, hai pisciato, non lo vuoi dire, vabbè. Allora, no, fermi tutto. Io in genere queste cose qui le faccio la mattina. Allora, cioè tu caghi solo la mattina? Diciamo, vado di corvo la mattina, io mi sveglio, come sai, molto presto, perché i bambini si svegliano presto, sì, e quindi vado sostanzialmente alle 7:05, dopo io sono un orologio in genere, sì, prendo, sì, il caffè alle 6:30, do il latte al bambino e poi lo porto con me, perché la tata sveglia più tardi, in bagno. E io vabbè, 7... Davide, però veloce, forza, dai, no, veloce, io che alle fai? 7:05, alle 7:05 vado di corvo, 7:05 poi faccio la doccia. Allora, la grande iniziativa è in parte legata alle attività, come dire, evacuatorie di Parenzo, perché è un'iniziativa molto interessante. La lancia Paolo Ruffini in questo modo. Carissimi amici della Zanzara, sono Paolino Ruffini e benvenuti a una nuova sezione dei grandi sondaggi della Zanzara. Espandendo un po', diciamo, l'adagio, chi la sente ne è parente, vorremmo introdurre questo altro adagio, che è: se la penso, son Parenzo. Nel senso che Parenzo in effetti non è un grande esponente della petomania, avendo probabilmente delle dicotomie con la flautolenza. Però vorremmo chiedervi questo, il sondaggio è questo: voi, cari amici della Zanzara, ascoltatemi bene, voi riuscite a scorreggiare a comando? E beh, questo è un grande sondaggio, il grande sondaggio è questo, e vi invito a chiamare e magari a farci sentire live, no, Parenzo, queste vostre imprese a comando, a comando. Beh, io riesco, no, io riesco, io riesco, io riesco. 30 seconds e poi torniamo. La Zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. La Zanzara. Potremmo andare a quel paese, Parenzo? Parenzo, puoi smettere di parlare? Allora, grande ritorno alla Zanzara dopo un sacco di tempo, è con noi Maurizio Zamparini. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Presidente, come stai? Bene, bene. Ti sento giù con la voce, che è successo? Sono stanco, ho lavorato tutto il giorno. Sei stanco? Tu non sei mai stanco per definizione. Sembra. Ma non sembra. Puoi essere stanco, cioè Zamparini non può essere stanco, è impossibile, impossibile. È possibilissimo, dai. Ma senti, non ho capito, io voglio sapere una cosa, ma tu a casa tua che vivi in campagna hai paura dei ladri? Ma sai, in Friuli, nel paese dove vivo io, non ce n'è. Come non ce n'è in Friuli? È pieno di ladri pure in Friuli? Nel Pio no, ma è pochissimo. Dove vivo in questo paese non si è mai sentito qualche paese. Aspetta vicino, che ti sento male, avvicina di più la bocca al telefono. Non ho capito. Ho detto c'è poca che criminalità, non ce n'è in Friuli, pochissima. C'è qualche sbandato, magari qualche immigrato che ancora gira in giro, ma non ce n'è. Vabbè, ma tu hai anche una villa in Brianza, eccetera. Cioè, no, io ho gli uffici, su Avergiate con l'abitazione. Ma le armi ce l'hai in casa? No. No, non hai armi in casa? Detesto le armi. Detesti le armi? Cioè, secondo non te quelli che... Non sarei capace di sparare. Se uno mi vede con l'arma in mano, mi ammazza. Io non sono capace di sparare, mi ammazza. Per cui quelli che adesso dicono che bisogna armarsi, hai visto tutto questo casino che c'è stato in Italia in questi giorni? No, immagino. Ma sai, è una cultura sbagliata mondiale questo livello qui, no? Cioè? Le armi non dovrebbero esistere. Non dovrebbero esistere, addirittura. No, non dovrebbero esistere, no, assolutamente. Cioè, peggio, no. C'è quello che ha sparato al ladro, là, siciliano, no? Cioè, quello che ha sparato mentre stava entrando a casa, l'hai visto in televisione, sì, sicuro. Ma sì, ma sai, a un certo momento io non posso ergermi a giudice, no? Uno prende l'arma, vabbè, perché vive in una zona dove ci sono furti tutti i giorni, qui sì. Erano già entrati diverse volte, naturalmente lui si era armato, ma probabilmente non con l'intenzione di uccidere, poi succedono le tragedie perché... Per cui in fondo è meglio non armarsi? Cioè, meglio non averla. Io non sono armato, poi no. Non Ma perché ragazzi. Quando dici le armi non devono esistere, che vuol dire? Che sarebbe meglio farle. Vuol dire che non devono esistere le armi, perché le armi. Perché è un mondo di violenza. Il mondo deve essere portato a essere amore e non violenza. Le armi portano la violenza. Quello d'accordo, quello è scontato. Però se ma è scontato, ma è così. Io penso, ma se un ladro cerca di entrare dentro casa tua, cioè la prima cosa che pensi, se c'è un'arma, è quella di sparare, o no? No, una volta a Firenze in camera ho trovato un ragazzotto in camera che stavano vistando negli armadi, l'ho preso per l'orecchia, l'ho accompagnato fuori, poi a un certo momento mi ha fatto pena perché era un immigrato da poco, non so, cose, gli ha dato i soldi, gli ha anche dato i soldi, ho detto non parlo più, per cui... Gli hai pure dato i soldi, vabbè, ma cioè, sei un caso unico tu, cioè, ce n'è, non è che è un caso unico, no. Ce n'è, eh? Io penso che se uno a un certo momento la violenza la affronti con amore, puoi anche destabilizzare la violenza, è chiaro, però non sto parlando in pari, sto parlando, cioè, meglio affrontare. Se uno mi entra in casa e dico vabbè, sei entrato in casa, cosa vuoi? Per cui non fare violenza, cioè meglio affrontarlo con amore e con comprensione, il ladro, dici? Il ladro non va compreso. No, meglio parlarci, senza violenza, parlarli, cercare di parlare. Tentare di parlare col ladro, bello questo. Tentare di parlare col ladro, io non voglio insegnare, io ti sto dicendo come sono. Quello che faresti tu, certo. Però. Senza armi che faccio? No, ho capito, Parenzo, che dici? Non ho capito. No, dico, interessante questa cosa qui del parlare col ladro, figuriamoci, l'avessi detta io mi sarebbero piovute addosso migliaia di telefonate. Io non parlerei col ladro, io mi chiacchierei in mano e basta, cioè questo è sicuro. Dopodiché io sono d'accordo con te, perché sono contro le pistole e non le ho e mai avrò una pistola, ma non mi metterei a dialogare, sì, mi metterei probabilmente in ginocchio, comincerei a dire ti prego, vattene via, prendi quello che ti pare, ma lascia stare la mia famiglia. Il parlare è anche questo, più armi per tutti, più armi per tutti. Il parlare è anche questo, dire prendi quello che vuoi. Dopodiché devi sapere, caro amico Zampa, che il buon Cruciani ormai pensa di vivere in Texas e quindi è armato di cinturone e pistole. No, io esaltato dall'idea, vuole far diventare questo siciliano, che ormai è diventata una comparsa televisiva, lo vedremo anche alla prova del cuoco tra un po' probabilmente. Perché? Ovunque vai in televisione dappertutto a spiegare la pistola. Siciliano ho detto. Ah, Siciliano. Ho detto Siciliano, che ormai è una straordinaria comparsa televisiva, per cui lo chiameranno alla prova del cuoco, ballando sotto le stelle, ballando con la pistola, una serie di informazioni. Ma non pigliare per il culo uno che è stato aggredito vivendo un dramma, dai, su, vergognati, dai, se questo sta morendo poi, dai, su. Altre televisive, non della di lui, lui... Poverino, secondo me anche emotivamente è molto. Ma stai dicendo che uno che ormai va a più fare comparsate televisive? Cioè... Beh, è uno che va molto. Addirittura dice datemi due ore di tempo per voglio raccontare tutto. Dico per carità, benissimo, però tanto, ragazzi miei, su. Ma ragazzi miei, che non ho capito. Tu lo vuoi far diventare Presidente della Repubblica? Io lo farei Presidente della Repubblica domani mattina, certo che lo farei Presidente della Repubblica, assolutamente. Cioè, Zamparini? Dimmi, ma tu non ti candidi in qualche città, Maurizio? Per l'amor di Dio, non farò mai il politico, faccio un imprenditore. No, ho capito, ma hai visto Marino, adesso l'hanno fatto fuori. Non ho seguito, quando è che l'hanno fatto fuori? Oggi, praticamente è decaduto il... Perché io sai, siccome i giornali scrivono solo bugie, non li leggo. Ma come scrivono solo? Perché invece la televisione racconta. Non quelli italiani, totale in generale. Ma perché invece la televisione racconta la verità? L'informazione è manovrata tutta, perché non la leggo, e buonanotte. Senti Maurizio, ma mi dicono che vuoi prendere a calci nel culo il tuo allenatore. Che è successo ieri? No, ma oggi vedi come i giornali. Oggi in un discorso con Kiss, ho detto, sì. il mio mister, ho voglia di prendere a calci in culo da come si è presentato. Sottomesso a Napoli, quello hai detto, però. Ho capito, ma un conto è di avrei voglia di prendere il calcio in culo, un conto è dire andrebbe preso il calcio in culo, no? Beh, è uguale, ho espresso così un pensiero in un discorso generale. Naturalmente, ma perché estrapolano la frase oggi su Sky, Zamparini dice Iachini va preso a calcio in culo, no? Vabbè, ho capito, per la partita di per la partita col Napoli va preso a calcio in culo, questo vuoi dire? Sì, per l'atteggiamento col quale si è ma perché? Che atteggiamento ha avuto? Perdono tutti col Napoli. A un certo momento quando uno mi dice, ma scusa Zamparini, perché ti lamenti, ha battuto 5-0 quello, 4-0 quello, 3-0 quell'altro, allora io gli ho scritto un'altra email e ho detto, guarda, la prossima partita che pensi così, fammi risparmiare il viaggio dell'aereo, stai a casa e l'abbiamo vinta 3-0. Cioè, il livello psicologico di una partita, se vai perdente... Ma perché lui è un debole, di testa non un debole. Vero, non è vero, sono andati perdenti stupidamente. È un però scusami, innanzitutto... Innanzitutto il fatto che voi comunicate con la mail è un problema, cioè uno dovrebbe parlarsi, perché comunicate con la mail? Che scrivete le mail? Allora comunico anche con lui, ma gli mando le mail perché lui sta allenando, poi mi risponde dopo. No, perché non è che lo posso chiamare tutti i secondi. La comunicazione via mail è stupenda. Fermo che c'è la pubblicità, torno tra un attimo, Maurizio. Che non ce la faccio più, io non vi sopporto, è un programma brutto. La Zanzara. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. No, io voglio farvi riascoltare una cosa, ragazzi, perché prima ho sbroccato all'inizio della trasmissione su Paola Maugeri, che è una conduttrice televisiva, eccetera eccetera, però quando è troppo è troppo, quando non si possono far passare così delle cose, non si può far passare proprio tutto. Allora io andrei in ordine. Allora, innanzitutto i gorilla, giraffa e toro, tutti vegani, vi prego. Sentite. Le proteine sono in ogni cosa che cresce. Ti sembro una che non si regge in piedi? Chiedi al gorilla, alla giraffa, al toro, al rinoceronte, al cervo come riescono a stare in piedi. Eppure sono i animali più grandi del mondo e sono tutti assolutamente erbivori e vegani. Ma no, c'era anche il rinoceronte. Che cosa c'era? Scusa, gorilla, Parenzo, gorilla, giraffa, gorilla, toro. Giraffa. Rinoceronte e il toro. No, anche un altro ce n'era, anche un altro. Sì, ce n'era anche un altro. Tutti erbivori e vegani, vi prego. No. Poi i topi li invito a uscire, le zanzare non le ammazzo. Cioè, come si fa a invitare i topi ad uscire se tu li vedi dentro la tua stanza? Questo adesso lo dico con calma, perché prima ho perso la testa. Perché di fronte a certe cose bisogna perdere la testa. Come si fa? Io vorrei capire come si fa ad invitare un branco di topi. Perché poi uno li fa anche questo esempio, un tale che si chiama, credo, Golinello. Un nodo c'è, però, scusami. Sì, col piffero, con che cosa? No, col una piffero, volta lo invitammo anche una signora che inventò lo scacciatoppo, se ti ricordi. Sì, ho capito, ma non è che li inviti ad uscire. Ma quello era un veleno, quello. Ma era un veleno, credo. Ecco, no, non era un veleno, era un cattivo odore, a proposito dell'iniziativa, sì, che ho tu capito, hai lanciato. Ma senti questa cosa, senti. Che considerazione ha lei di un topo o di una zanzara? Sono esseri senzienti anche quelli? Per me, se lei si trova un topo in casa, cosa fa con questo topo? Lo invito ad uscire. Ah, e se c'è un'infestazione di topi? Non mi è mai capitato, però inviterò tutta la colonia di topi a uscire da casa mia. Perché evidentemente abitando in città non si trova in situazioni che... Probabilmente, però voglio dire... E le zanzare? Le zanzare non le ammazzo. Cioè, questa qui non ammazza le zanzare, capito? Quando vede le zanzare intorno non le ammazza. Ah, veramente. Cioè, poi siamo noi che distruggiamo il pianeta. Poi siamo noi che siamo esseri bizzarri, perché ti guardano anche male i vegani, i vegetariani. Non ti guardano come un povero pazzo, ti guardano come un criminale. Poi vi faccio sentire un'altra signora molto interessante, molto simpatica anche, che si chiama Rocchi. Te la ricordi? È stata anche in Parlamento per i Verdi. Sì, Carla Rocchi. Adesso è dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Cioè, esiste anche l'Ente Nazionale Protezione Animali. Quello è giusto. È giusto. Ma facciamo finta che sia giusto. Però questa signora, che è anche il capo dell'Ente Nazionale Protezione Animali, dice che mangiando la carne si mangia anche lo stress e l'angoscia dell'animale. Vi giuro, si mangia anche lo stress e l'angoscia dell'animale. Ma quando una persona mangia una bistecca, non mangia soltanto quello che l'animale ha mangiato nella sua vita, le porcherie che ha preso negli allevamenti dove si danno le porcherie, ma mangia anche tutta l'ansia, l'angoscia, lo stress, il dolore degli ultimi momenti della macellazione. Beh, spese stupende, eh. Cioè, vi giuro che non ci avevo pensato in realtà. Quando mangio la bistecca, non è che la mangio tante volte in realtà. Sentita già sta storia, però. Cioè, tu avevi sentito che uno mangiando. No, ti dico di più, avevo sentito per la verità, soprattutto per i polli, quelli che vivono in allevamento. Ragazzi, non ce la faccio, non ce la posso. Se il pollo è stressato. No, che praticamente è meglio mangiare animali che sono vissuti fino a poco prima allo stato brado, no? Cioè le vacche del pascolo, eccetera. Quelle prodotte serialmente, cioè prodotte, come dire, no, i polli ammassati dentro una gabbia. Ma dai, saranno, quel pollo lì sarà più incattato rispetto al pollo che è cresciuto all'aperto, no? Ma dai, su, ma non è questo il punto, dai, su. Anche tu ragiona, quel pollo lì. Ma dai, non me ne frega. Io voglio chiedere a Maurizio Zamperini, che è un uomo di terra, è un uomo della. Ma guarda che è vero, eh. Io voglio capire se lui è. Il pollo stante biologico è migliore del pollo di batteria. No, ma io voglio capire una cosa. Ma tu come, che ne pensi di questi qua, di vegani? Cioè, tu la mangi la carne? Allora, quello che state dicendo adesso è scientificamente provato. Voi sapete che noi siamo costruiti su 50.000 miliardi di cellule. Il nostro corpo umano è fatto da 50.000 miliardi di cellule. Ma che così, vuol come, così vuol dire che tutte le cellule hanno dentro una memoria, che tu vai a scovare il tuo DNA, hanno dentro la memoria di tutto. Per cui tu quando mangi le cellule di un animale, mangi anche la tua memoria. Scientificamente provato. Ma perché sei diventato vegetariano pure te? No, studiatemi un po' di fisica quantistica, aggiornatevi un momentino. Ma sì, d'accordo, però. Non ne avete il tempo perché fate solo trasmissioni. Però non prendete in giro tutto prima di essermi informati. Ma dai, allora, su. No, ma senza, dai, mangi lo stress, dai, e l'angoscia dell'animale, Maurizio, dai. Io sono informato, come io per esempio non schiaccio una formica. Sicuramente se una zanzara sul braccio gli do uno schiaffo che mi sta beccando. Cioè tu non schiacci una formica. L'antitopo ce l'ho perché c'ho i gatti. Per cui da me i topi in casa non entrano, ci sono i gatti. Vabbè, ho capito, tu non schiacci animali, una formica. I cani, no? Per cui voglio dire, se c'è una la carne la mangio o no? La carne la mangio, sì, o no? La carne la mangio una assassino. Volta alla settimana. Non pensi di uccidere gli animali mangiando la carne? No, assolutamente lo penso. Quando l'ho detto mio figlio, ma scusa, lui mi ha detto, guarda, la mucca che tu mangi è pure uccisa, sì, però voglio dire, se uno per suo credo rispetta tutti gli animali, io lo rispetto moltissimo. Sì, no, ma io pure lo rispetto, non è quello il punto. Cioè, è questione che ti fanno sembrare un povero non deve pazzo. Non deve diventare fondamentalista, non è che quello che crede lui. Senti, deve una cosa, la, ma deve essere la verità mondiale. Lui la pensa così, un altro la pensa in un'altra maniera. Quando saremo davanti a Dio ci dirà chi ha ragione. Beh sì, speriamo il più tardi possibile però, amico mio. Speriamo il più tardi possibile, sicuramente. Senti una cosa, ma fino a quando lo mantieni questo allenatore tu, Iachini? Non è che cominci No. Sai, Iachini, no, però sai, ogni tanto vanno appungolati. A un certo momento è troppo tempo che con me, tendono a sedersi, no? Forse pure allora, troppo, forse pure tanto, troppo. No, non è troppo, io sono affezionato a lui come papà. È stato mio capitano nel Venezia, l'ho inventato io come allenatore quando era ancora giovanissimo. Per cui è un rapporto speciale. Cioè, ogni tanto bisogna usare il forcone. Ogni il forcone. I giornali gli dicono: grande allenatore, guarda cosa ha fatto. Meno male che poi c'è una sconfitta, capito? Perché sennò si gonfiano. Per cui tutti hanno i loro pregi e difetti. Iachini ha molti pregi. E quali sono i difetti? Cioè, che significa? Anche lui si gonfia? Anche lui legge? Ma sì, quando lo gonfiano i giornali, si gonfia anche lui. Si gonfia lui. Cioè, oggi a chi schizzo ha detto anche dell'amico Aurelio. Da Laurenzio ho detto: voi ragazzi fate molta attenzione che non si gonfi troppo, perché se uno poi lo punge scoppia. Ma chi lo quando dice? Uno è in testa alla classifica, il Napoli, il Napoli non è in testa, il mio amico Aurelio naturalmente adesso è gonfio come un... Ma senti, ma tu chi preferisci tra Roma e Napoli? Cioè, chi vorresti che vincesse lo scudetto? Ma tutte e due, mi sono due squadre simpatiche tutte. Vabbè, e due, ma un po' di più il Napoli, perché cioè, tra Roma e Napoli, tra Roma e Napoli fai il tifo per il Napoli, diciamola tutta, sicuramente. Sì. Cioè, sicuramente preferisci il Napoli. Sì. Senti una cosa, ma volevo capire da Zamparini una cosa. Hai visto che il Viperetta ormai è lascerà la Sampdoria sostanzialmente? No, ma non è detto, non è detto. Beh, non è detto. Ma lui dice no. Perché no? Hanno anche sequestrato la casa di Parioli. Perché non lo ospiti in una delle tue tante case che hai lì in Friuli? Scusa. No, io penso che non ne abbia bisogno, che lui stia bene. Insomma, non lo vedo morto di fame. Ma come no? Ho su Twitter l'altro giorno. E siccome lui è anche una persona, io l'ho conosciuta, una persona intelligente, una persona estemporanea, non è una persona di spettacolo. Lui quando fa delle cose lo fa per fare spettacolo. Cioè, più persona di spettacolo che persona di calcio, dici tu? Sì, ma tutti noi del calcio siamo anche persone di spettacolo, compreso io. Senti una cosa, ma invece Dybala te lo stanno rovinando, sto povero Dybala? Tanto no, l'hai venduto, no, te lo stanno no, un po' rovinando, è difficile, dai. È difficile rovinare un campione. Penso che sia lui che sta rovinando Allegri. Cioè lui si sta rovinando, dice. È lui che sta rovinando Allegri, perché Allegri fa brutte figure e si rovina. Ah, è lui che sta rovinando, cioè indirettamente sta rovinando Allegri. Sì, esatto, esatto. Ma non si sarà un po' pentito di essere andato alla Juve, no? Ma non credo. La Juve è un grande club, naturalmente non sanno che ci sono i periodi di ascesa, i periodi di discesa, per cui si sta riassestando. Mica uno deve vincere sempre tutto, come fa il Bayern Monaco, no? Per cui, io spero che stanno la Juventus vinca la Champions. Ma molti dicono che tu critichi un po' l'utilizzazione di Dybala alla Juventus, Maurizio, perché c'è una clausola nel contratto che prevede per un certo tot di presenza eccetera eccetera 8 milioni di euro. No, assolutamente. L'ho letto da qualche parte. C'è un bonus sul contratto, ma non è sulle presenze. Bonus che prevede? Bonus. Su che cosa? E prevede che loro fra 3 anni mi devono dare 8 milioni sicuri al 100% e lo sanno. Però scusa, non è un bonus, è una cosa sicura. Ma si chiama, vedi, il calcio ha inventato i bonus per dilazionare il pagamento. Siccome loro volevano dilazionare questi 8 milioni, abbiamo... E perché hanno avuto di dilazionare? Non c'hanno una lira? Che ma ormai no, ce l'hanno, ma sono trattative normali, no? È uno si è inventato i bonus. Capito. I bonus non deve dare la fiduzione alle garanzie, però ci sono. La Juventus, la Juventus è una garanzia. Per cui non è legato alle presenze, ai risultati. No, assolutamente. È legato a qualcosa che matematicamente è sicuro. Vabbè, possiamo dire che lo confermi l'anno prossimo, Iachini, o no? O torni in mangio allenatore? Quello no, bisogna che faccia il campionato che dico io, se vuole essere confermato. Cioè, tipo, dove deve arrivare? È tipo quello dell'anno scorso, un buon campionato. Cioè deve arrivare a metà classifica. Cioè se arriva ancora più su, lo confermo. Vabbè, ma invece se si salva l'ultima giornata qui. No, non posso fare questa ipotesi qui. Se si salva l'ultima giornata, mi avrà rovinato sicuramente il mio sistema nervoso, meriterebbe una punizione. Cioè se arriva tipo 12° lo cacci. Ma no, ma perché mi fai questo domanda? Ma l'hai detto tu, l'hai detto a metà classifica. Ma no, io ho detto bisogna finire il campionato, c'è il contratto che scade alla fine del campionato. Ma quello non è mai una certezza, non è mai una certezza per nessuno. Ma siccome scade il contratto e io ho il diritto di portarlo avanti un anno, dipende alla fine dell'anno, in base ai comportamenti. Vabbè. Se uno guida la Ferrari, se arriva primo lo confermo, se arriva... Ma mica c'ha la Ferrari lui, mica c'ha la Ferrari. No, non ho fatto un esempio. Va bene, ciao caro, ciao. Ciao cari, ciao. Brucida. La Zanzara. Tutti quanti, eccetera. Però siete due conduttori da festival dell'ovvietà. Allora ragazzi, andiamo a Biella. Riccardo, vai. Ciao Beppe. Dimmi. Volevo dire una cosa riguardo al sindaco di Roma Marino. Sì. A me quello che mi lascia di stucco non è tanto il teatrino politico all'interno del PD, eccetera. Quello che mi lascia veramente basito è che il fatto cosa? Che Marino è una persona che ne ha fatte di cotte di crudo in passato. Allora mi dico, ma come fa una persona di cotte e di crude? Cioè, ha fatto figuracce come quella a Pittsburgh, sempre per la questione dei rimborsi, quando era medico lì. Poi che ha fatto? Di cotte e di crude cosa? Sì, ma non stiamo parlando di quisquiglie. Se tu vai a leggere attentamente la lettera di dimissioni che lui ha firmato, è evidente che è stato cacciato. Perché... Vabbè, e allora? Allora io mi stupisco che una persona del genere trovi lavoro come primo cittadino in Italia. Sì, ma poi non è che trovi lavoro, cioè c'è qualcuno che l'ha candidato alle primarie, gli elettori del Partito Democratico, almeno quelli che votano alle primarie, l'hanno votato, e successivamente i romani sono andati alle urne, anche se, come dire, l'astensionismo è stato notevole, ma non è questo l'importante, e lo hanno votato primo cittadino. Al contrario, Renzi non è stato eletto da nessuno, non è stato nominato da nessun cittadino, è stato messo lì con una congiura di palazzo per far fuori l'altro Enrico Letta. Certo, poi è stato votato dal Parlamento, la fiducia, per carità, non è certamente un premier illegittimo, ma se c'è uno che è stato eletto dal popolo, questo è Marino, non è Renzi. Ma Beppe, posso essere d'accordo. Sì, ma si deve avere il coraggio di dire la verità. Si deve avere il coraggio di dire la verità. È stato Marino, è stato fatto fuori perché Renzi ne aveva pieni i coglioni. Questo è il punto fondamentale. Renzi ne aveva pieni le palle di tenere in piedi Marino. Perché Renzi pensa... e il Vaticano insieme. E il Vaticano insieme, certo. Ecco, Renzi insieme al Vaticano, punto. Cioè, assolutamente. Non si può essere ipocriti davanti a questa cosa, no, dai. Ma no. È così. Michele, provincia di Padova, vai. Sì, pronto, ciao. Dimmi. Ascolta, sì, io mi continuo il ragionamento dell'ascoltatore precedente e mi chiedo perché voi giornalisti non avete mai posto questa semplice domanda al sindaco Marino. Sì, quale? Perché non torna a fare... Non torna a fare? Il chirurgo. Vabbè, ma che vuol dire questo? Cioè, vuol dire? Tornerà a fare il chirurgo, molto probabilmente... Te lo spiego io. Io sono medico. Sì. Sono medico ospedaliero. Sì. Il Marino è un chirurgo. Il chirurgo è una figura professionale particolare. A volte soffre di delirio di onnipotenza. È un lavoro bellissimo. Quando vuoi punire un chirurgo, lo togli dalla sala operatoria. Ok? Quindi. Quando vuoi, scusa? Quando lo togli dalla sala operatoria. Non punire lo un chirurgo. Sì. Allora, è un professionista che dalla società civile. Dice benissimo, io adesso voglio fare qualcosa per il mio paese e mi butto in politica. Però in politica vieni trombato, perché non torni a fare il tuo lavoro, che è un lavoro bellissimo. Perché non gliel'avete mai chiesto questo? Ma che vuol dire questo qua? Se uno ha deciso di fare politica, ha deciso a un certo perché punto di fare voi politica. Ma giornalisti dovete fare il vostro lavoro. Ma che cazzo c'entra? Ma che ci devi dire tu come bisogna fare le domande e quale domande bisogna fare? Scusa, Michele, abbi pazienza. Sì, sì. Cioè, mi devi dire tu le domande che uno deve fare o no? Benissimo, accogliamo la tua richiesta, accogliamo i tuoi consigli, ma qual è il punto? Perché qualcuno doveva chiedere, caro perché Marino, io, perché no? Perché il sindaco Marino è un mediocre sia come medico, chirurgo, che sì. come politico. E la politica, il nostro paese, è in mano a gente mediocre. Questo può darsi che sia in mano a gente mediocre, ma adesso bravo cattivo chirurgo, questo non lo so, non so giudicare. Io che ne sai che è mediocre come chirurgo, scusami? Perché non appunto, perché non. Ma che ne sai che è mediocre come chirurgo? Che c'hai? Le valutazioni, le sue valutazioni negli Stati Uniti, le sue valutazioni in Italia sul suo operato come chirurgo oppure no? Hai queste prove oppure parli a cazzo di cane? Voi avete fatto qualche indagine, qualche... Ma indagine su che cosa? Sulla sua attività. Ma io credo proprio che come chirurgo, come nella sua attività professionale, non avesse nulla da farsi rimproverare. Cioè, non, sicuramente uno che va a insegnare o comunque a operare a Pittsburgh, negli Stati Uniti, qualche qualità ce la deve avere da quel punto di vista o no? Un chirurgo che ha 50 anni è nel pieno della sua attività professionale. Nel pieno del suo splendore, perché non torna a fare i tre pianti di fegato? Ma io non, francamente non riesco a capire. Ma scusa, ma che cosa c'hai? Cioè, evidentemente da medico, forse anche tu chirurgo, hai qualche cosa contro Marino? Cioè, per carità, Marino è colpevole delle peggiori nefandezze a Roma di incapacità politica. Ma cosa c'entra adesso questa storia del chirurgo? Comunque, allora, traffico, dai. Traffico, mi hai rotto le scatole. Traffico veo chi là. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento La Zanzara. Carissimi amici della Zanzara, sono Paolino Ruffini e benvenuti a una nuova sezione dei grandi sondaggi della Zanzara. Espandendo un po' diciamo l'adagio, chi la sente ne è parente, vorremmo introdurre questo altro adagio che è se la penso son Parenzo, nel senso che Parenzo in effetti non è un grande esponente della petomania, avendo probabilmente delle dicotomie con la flautolenza, però vorremmo chiedervi questo, il sondaggio è questo, voi... Cari amici della Zanzara, ascoltatemi bene, Voi riuscite a scorreggiare a comando? Beh ragazzi, sono sondaggi fondamentali, Sono sondaggi fondamentali, però c'è anche di fondamentale quello che ha detto Vittorio Sgarbi. Su quello che ha detto Vittorio Sgarbi sulla questione dei vegani, dei vegetariani, eccetera, eccetera, eccetera. Fondamentale, e direi, Parenzo, quasi definitivo. Questo strano però, a quel tempo si mangiava carne ma poi si diventava Caravaggio, Carracci. Oggi non mangi carne e rimani un coglione lo stesso. Beh, eccezionale questa cosa qua, eccezionale. La risentirei. Ti prego. Che strano però, a quel tempo si mangiava carne ma poi si diventava Caravaggio, Carracci. Oggi non mangi carne e rimani un coglione lo stesso. Va bene, Mauro, provincia di Brescia. Vai Mauro. Oh, Cruciani. Sì, dimmi. Ti voglio informare se puoi farti felice che io qua sparo. Chi entra, sparo subito, all'istante. Vabbè, chi entra a casa tua spari, che cos'hai? Porto d'armi, pistola, fucili, sì, cos'hai? Sì, pistola, qua a Brescia quasi tutti ce l'hanno. Ma no, quasi tutti a Brescia, non è vero, conosco un sacco di gente a Brescia che no, non ha nessuna pistola, amico. Ce l'hanno, vabbè, ma non te lo dico, ma ce l'hanno. Chi è che vabbè, entra, anche se vede una sagoma scura. A parte che tu, da come pari, non mi sembri proprio bresciano, caro no, Mauro. No, non sono per niente, però... Che cosa sei? Calabrese, cosa sei? No, sono siciliano. E ti posso dire che i bresciani sono peggio di me, sparano quelli là, i bresciani ne sparano e basta, Vabbè, non allora... dicono neanche alt, per avere una saga non sparano, però io devo chiamare per un'altra cosa. Ascolta, ma mi spieghi una cosa? Sì. L'OMS dice che la carne è cancerogena. Sì, a parte allora, che oggi ha fatto una mezza marcia indietro. Ecco, e tutti a dire, ma che quelli dicono fregnacce, sono dei cagoli, ma che cazzo ce ne frega l'OMS, noi gli mangio la carne e basta. E allora quando l'OMS ha detto che i froci non sono matti e quindi hanno depennato la malattia mentale, tutti a dire, se lo dice l'OMS, ma quello è un organo, allora bisogna seguirlo. Ma lo spieghi questa roba qua? Vabbè, ma questo è un altro discorso, però dai. No, su. No, allora, hanno eliminato l'omosessualità tra le ma quello hanno fatto bene. Ma è la stessa organizzazione, ma volete capire che questi qua sono semplicemente dei burattinai, ci condizionano. Quello può darsi che dietro queste robe qui della carne ci siano degli interessi dietro. Ma pensate, comunque... sono andato dal macellaio e mi ha detto, ma sai, qua, là, la gente non vuole prendere sulla carne. Ma la gente è scema. Ma si fa allora, condizionare. La cosa più incredibile del mondo è la precisazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi, o ieri, non mi ricordo, è questa. Non smettete di mangiare carne. I risultati della ricerca confermano le raccomandazioni del 2002. Cioè, alla fine, dopo averci fatto per due giorni due coglioni così sulla carne, sugli insaccati, sulle salsicce, sui wurstel, eccetera, dicono non smettete di mangiare la carne. I risultati della ricerca in realtà confermano le raccomandazioni. Cioè, praticamente non c'è nulla di nuovo, capito, Parenzo? Cioè, dopo due giorni di rottura di coglioni, questi qua hanno specificato che non c'è niente di nuovo. No, io in realtà ho capito questa cosa. Dai, qua, che su. Già da tempo si dice che la carne rossa, in particolare fatta affumicato ai ferri. Vabbè, lo sappiamo questo, dunque. È questo, ma infatti, cioè, la cosa non è che avesse nulla di nuovo, vietata. Vabbè. Anch'io quando l'ho letto ho detto mi sembra una cazzata, perché non è possibile, non è vero. No, che ma io ho detto semplicemente una cosa: se questi qua dicono che non smettete di mangiare la carne, eccetera, ma allora di cosa abbiamo parlato per due giorni? Del nulla. Federico, abbiamo dalla provincia di Modena. Titoli sui giornali che alla fine. Ma no, di cazzate dette da loro, dai. Federico, dalla provincia di Modena, dai. Forza. Sì, buonasera Cassani, buonasera Parenzo. Io da vegetariano, affermato vegetariano ormai da tanto, voglio esprimere il mio parere sul fatto che odio il popolo dei vegetariani e dei vegani, perché sono un popolo che parla per sentito dire e che sinceramente rompe i maroni veramente a tutto il mondo. Cioè, questo qua detto da cioè, un vegetariano. Cioè, tu da vegetariano dici che, esatto, che rompono sì, le balle? Sì, ma sì, ci sono vegetariani e vegetariani, ci sono vegani e vegani, mica esatto, sono tutti uguali. Esatto. Ma io per esempio vivo e lascio vivere. Cioè, io qua ho la mia amorosa che, per esempio, lei è sempre stata carnivora e sempre rimarrà carnivora. E io di certo non sto a stressarla, anzi, lei mi cucina vegetariano, io la porto fuori stasera a mangiare carne, quindi insomma, il mondo è vivi e lascia vivere, cioè questi qua. Poi io li paragono veramente a una piccola parte del mondo dei grillini, perché parlano per sentito dire, quelli che argomentano una discussione leggendo il titolo dell'articolo e non leggendo l'articolo. Quindi sono... Va bene, grazie Federico. Riccardo, grazie. Provincia di Lecce, vai Riccardo. Riccardo? Pronto? Dimmi, vai. Provincia di Lucca o di Lecce, non mi cambiare connotati. Non lo so, amico mio, ma hanno scritto Lecce qui, sarà Lucca. Prima di tutto un complimento a chi dice pane e vino al vino, e sì, poi chi veramente come te cazzutissimo mette la colonna sonora di Easy Rider e Easy Top. Detto questo, tre argomenti in 15 secondi. Prima di cosa tutto, io sono stato rapinato nella mia azienda, pesantemente narcotizzato. I carabinieri mi hanno detto: meno male non si è svegliato, sennò si prendeva una coltellata in mezzo al costato. Ma io devo difendere alle 2 di notte il mio territorio, la mia azienda e i miei beni. Secondo argomento, quello dei vegani. Sì. Perché questi signori qua sono contro, per esempio, l'olio d'oliva e le patate? Sono, diciamo, dei prodotti vegetali, ma loro ambiscono invece pubblicizzare la soia. E qui si potrebbe parlare di un business notevolissimo. Poi... Terza cosa, la suorina, quella famosa che ti ha detto, cambia perché te pecchi. Ma se il nostro Signore Dio ci ha fatto così, a immagine e somiglianza, e questa qui dovrebbe saperlo la Bibbia, perché, diciamo, ci ha fatto amanti del sesso? Il discorso sta un altro, come si usa e come si rispettano le persone. Ecco il discorso com'è. Ma perché tu, non ho capito, anche tu sei un po', sei malato di figa, anche tu. Ma guarda, io sono della vecchia guardia, anche se ho 63 anni, mi piacciono le donne e mi continuano a piacere le donne. Anche se, come dice il vecchio adagio, donne e motori sono i dolori. Però la figa è sempre la figa. Tutto a 63 anni, ma che fai a 63 anni, amico mio? A 63 anni... Beh, ancora, ancora, no? Ma certamente, certamente. Ci mancherebbe altro. Ma con tua moglie oppure sei single? No, no, io sono senza figli e senza moglie. Sono uccello bosco, come si dice. Sei scatenato allora, Sei scatenato. Ma nel mio piccolo, come dicono le formiche, dice, mi do abbastanza da fare e sono molto apprezzato. Sei apprezzato addirittura? Sì, in provincia di Lucca sei apprezzato? E certamente. Ma da Tardone o da ragazze più giovani? No, guarda, è tutta una questione, di savoir-faire e di fascino. E per esempio, rispetto al tuo collega David Parenzo, sì, hai, diciamo, senz'altro un successo con l'ambito femminile, perché, diciamo, ti pone in una certa maniera, perché hai personalità, hai carattere. Il discorso è quello di uscire dalla massa della mediocrità con un certo carattere, con una certa personalità, e non confondersi, diciamo, con un piattismo che è dilagante. Tutto lì il discorso. Mamma mia, che discorso che hai fatto! Fermi tutti, fermi. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. Allora ragazzi, a grande richiesta, i Razzi Files, nuova rubrica. Razzi e il cambio di maggioranza nel dicembre del 2010. Perché passò dall'Italia dei Valori, da Antonio Di Pietro a Silvio Berlusconi? Le rivelazioni del senatore di Forza Italia. La verità mi fa male, lo so. E io ho detto, ma scusate, qui ognuno prende i cazzi loro. Ma permetti che una volta tanto, io nella mia vita, no, ho sempre pensato agli altri, perché io sono uno buono, anche mia moglie mi dice, tu sei troppo buono, aiuta tutti, e della tua famiglia non aiuta mai nessuno. Ma una volta tanto, ma scusate. All'età di 62 anni non ho più lavoro, perché in Svizzera ti devi licenziare. Io devo votare per non lavorare più. Oh, ma che sono mica cieco? Ma io non volevo andare a casa, perché, scusate, c'ho da pagare il famoso mutuo che adesso, grazie al Signore, hai finito. Meno male, ma che se no magari, che mi mangiava le mattone della casa dopo? Magari per qualcuno può essere, ma chi è che non l'avesse fatta? Me ne deve dire uno che non l'avrebbe fatto. Ingazzata al magistrato, ma guarda, senatore, dice questo non è reato. Ma guarda, io tra i diritti, a me mi può mettere pure a arrestare se questo era cosa. Tanto mi hanno al carcere. Io purtroppo a telecamere nascoste io non sapevo, ma io ho detto la verità, gli ho detto questo, io una volta tanto, gli ho detto qui ognuno pensa per i cazzi loro, stavolta penso pure per i cazzi miei, perché do il voto e il governo andiamo avanti, è così piglia la paga pure io, sennò altrimenti che paga pigliavo? Che c'era, l'importante è che andiamo avanti, è che io non voglio perdere il posto di lavoro, io devo votare, ripeto, dovevo votare per andare a casa, e che me le dava a me ammagnato fino all'età di 65 anni? Io penso che qualsiasi cittadino, non solo italiano, ma in tutto il mondo, chi è che vota per non lavorare più? Che me dica uno, io avevo votato, come si dice in italiano? Io avessi votato per andare a casa e per non lavorare più. Ma a me che cazzo me frega darci nemico, io a quel punto là mi stico mica a guardare che è un nemico di quello che è un nemico dell'altro, io a me me ne frega niente. Bisogna mantenere lo stipendio. Io devo mantenere e che devo vivere, perché qui nessuno ti dà niente e nessuno ti regala niente. Le grandi rivelazioni di Antonio Razzi. Giovanni da Roma. Buonasera. Vai Giovanni, dimmi. Intanto un grande Razzi, perché con queste dichiarazioni ci sconvolge la vita. E io desideravo esprimere un'opinione sul sindaco, anzi ex sindaco Ignazio Marino. Io sono di un orientamento politico completamente diverso rispetto a lui. Allora? Lo ritengo sicuramente una persona dal punto di vista politico, e sottolineo politico, probabilmente molto sciocca, perché si è fatto prendere da queste fronde del PD che comunque lo volevano eliminare. Forse pensavano che fosse più malleabile. Dal punto di vista medico ho letto anche che è stata una persona molto stimata, perché ha anche presentato un nuovo sistema. Dicevo, purtroppo mi dispiace un po' che l'abbiano fatto fuori in questo modo, ma sicuramente era la persona sbagliata al posto sbagliato nel momento sbagliato. Probabilmente Roma ha bisogno di due persone per già essere gestita dal punto di vista. Che vuol dire due persone? Che vuol dire? Un sindaco politico attaccato alla politica, un politico vero, e un tecnico, come hanno tutte le città, anche quelle piccole, che serve per la gestione della normalità. Non ho capito che vuol dire, c'è bisogno di un sindaco autorevole, punto e basta. Ciao Giovanni, ciao. Grazie. Ciao. E dopo qualche giorno ritorna la Zanzara, un nuovo editorialista, caro Parenzo, nuovo editorialista assoluto, nuovo editorialista, Alex! Buonasera bucaiuoli, dovevate chiamarmi ieri però. Hai ragione amico mio, hai ragione, ma ieri poi ci siamo un po' persi, sai, Siete sempre a parlare di Marino, il sindaco. Hai ragione. Fate Alex Magni sindaco di Roma, e allora vi assicuro, una trombata al giorno per tutti. Sì, e poi questo è il tuo programma, sarebbe il tuo programma. Sì, trombare gratis. E spiegarsi nelle pause, con la 100%, è chiaro. Però bisogna, caro amico Alex, tu sei per esempio uno di quelli, dato che vivi col mondo del porno, poi mi spiegherai quanto guadagni, no? Sì. Perché qui, Parenzo, siamo in presenza con Alex Magni di 100%, che è una delle grandi case produttrici italiane. Il 100% si riferisce a che cosa intanto? No, 100% si riferisce non so a che cosa, 100% di felicità. No, 100% di felicità, credo. Di goduria, dai. Di goduria, di goduria. C'è il professore anche stasera. C'è il professor Parenzo, sì. Fratello, te la porto io una valletta, c'ho Verusca, 23 anni, una maiala. Ma hai ragione, ma guarda, professore, senza offesa, dai, una bella stangona. Ci sto pensando. Per carità, lei esattamente i titoli cinematografici. L'hai già detto questa cosa qua, l'hai già detto, è vecchia. Io ti stavo spiegando che Alex Magni è uno dei campioni dell'iniziativa imprenditoriale in Italia, amico mio. Certo, cioè, nel senso che la Confindustria, gli imprenditori italiani dovrebbero fare un monumento a questa iniziativa. La Confindustria mi fa una pippa. Io sono quello che fa segare mezza Italia, quindi sarò importante. Allora, ha invitato un sacco di ospiti e quella, e invitate me che io vi insegno a godere. No, ma hai ragione su questo qua. Ma non c'è bisogno di questo, professore. Scusi se siamo attrezzati. Per molta gente c'è bisogno, evidentemente. Scusami, Poi spiegami perché devono esserci delle spiegazioni dei suoi film. Scena bollente con una porca che chiama... Cioè, voglio dire, perché... Ma sono film straordinari. Tu lo sai no, che... No, le didascalie che sono scritte sotto. Alex Magni, sì, una moglie molto vogliosa. Cioè, voglio dire, ma professore, ma che bisogno c'è di mettere tutti questi No, aggettivi? devi capire che Alex Magni è considerato, e la 100%, sono considerati i paladini del neorealismo. Cioè No, sì, questo non lo accetto. Tu puoi fare tutte le trasmissioni che vuoi, tutte le scoreggi che vuoi, e ormai sopporto qualunque cosa. Ma che ha messo il nome del signor Magni, per carità, venga accostato al neorealismo... No, Alex, spiegaglielo tu che cosa significa il neorealismo, spiegaglielo tu. No, professore, ha provato con lo Xanax, è molto efficace. Uno Xanax da 25, professore, si calmi. No, allora, ma io sono calmissimo, professor Magni. Ma cosa c'è il neorealismo? Professore, guardi, lei li ha mai visti i film della 100%? No, francamente no. Allora non puoi parlare, dai, allora insomma, non puoi parlare. Perché preferisci le casalinghe tu alle attrici professioniste, Alex? Scusami. È perché sono maiale, maestro. Cioè, perché sono molto più maiale. Perché è tutto naturale, dice, tutto molto molto naturale. Allora guarda, ti faccio i rumorini delle pornostar e i rumori delle casalinghe. Attenzione, dimmi. Sì, non mi fare licenziare. Volume. Dimmi, pornostar che tromba. Sì. Sì. E invece casalinga? Casalinga che tromba. Ah sì, dai, dammelo tutto, spaccami tutto. Ho capito. Ce l'hai duro. Sì, ho capito. Cioè parlano, si dilungano. Mio marito arriva fra un'oretta, rompimi tutta, sì, fai la svelta. Parenza, capito o no? Ho capito che la differenza. Professore, l'ultima volta che lei si è toccato, quando è stato? Prima, molto ampia la sceneggiatura del professor Magni. No, non te lo dirà mai, Alex, non te lo dirà mai. Senti, ma io voglio capire una cosa, Alex, ma tu non hai paura dell'AIDS, dato che sei protagonista anche di questi film, non hai paura del... Ma senti, io l'AIDS lo prendo bene, perché ho messo la parabola sul tetto, prendo l'HIV, l'AIDS, prendo tutto. No, ho capito, d'accordo, sì. Però insomma, cioè, qualche piccolo timore ce l'avrai pure te. D'altra parte è il tuo mestiere, come bene, io ho paura di dire qualche... Facciamo i nostri controllini con i test, dai. Senti, ma a Renzi ti piace, tu che sei fiorentino? Cioè, sei un grande elettore di Renzi, tu che sei della zona? No, Matteo Renzi non lo conosco, io conosco bene per grande trombatore di Silvio, dai. Il cavaliere, ma come, perché lo conosci personalmente? Lo conosci personalmente il cavaliere? No, però lo conosciamo di fama, dai, grande pizzaiolo. Ho capito. Allora, se Silvio mi avesse chiamato a me tutte le volte, aveva voglia di trombare, dice Alex, sì, portami du maiale. Allora, non sarebbe nei guai. Esatto, non avrebbe speso nulla, questo era ancora premier. Questo è Parenzo, però su questa cosa qua il professor Magni penso che abbia ragione. Invece di Tarantini, invece di tutti i casini, eccetera, con le donne che ha avuto. No, Parenzo, che dici? No, certo, io li portavo un po' di piccione, di tardone, chiaro. Non li portavo certo le giovani. Questo è il punto. Non li portavi quelle giovani, li portavi quelle le tardone tue. No, le tardone mie, insomma, ho anche le figlie, anch'io, ragazzi. No, gli portavi le tardone, cioè non gli portavi quelle che piacciono a lui, capito? No, su questo credo che abbia ragione il maestro, chiamiamolo ormai, no? Maestro. Senti, io maestro Magni, ma maestro, non ha mai fatto un lavoro normale, mi chiami Sire. Sire Magni. Sire, lei ha mai fatto anche un lavoro normale nella sua vita? No? Allora io lavoro, ragazzi, chiariamo una cosa, però rimanga fra noi tre. Insomma, no, non vorrei. Allora, io mi prostituisco, ragazzi. No, questo. Io, nome d'arte Lucilla, al chilometro 27 dell'Aurelia, fra Migliarino e Torre del Lago. Ma veramente? Cioè, no, fai quello. Vabbè, non mi vergogno a dirlo, ragazzi. Eh no, io ma infatti non bisogna vergognarsi. Ma io la vedo, la sua famiglia, come l'ha presa tutta questa cosa? Cioè, tuo padre, io, tua madre. Ma papà non l'ho conosciuto. No, parenza in la zia, ma era una zoccolona, quindi. Dunque, non faceva testo. Non faceva testo, apprezzava pure lei. Oh, ragazzi, professore, guardi, lei è mai stato con un uomo? No, mai. Ma ci sono dei vantaggi enormi. Guarda, mi ma creda. Tu sei bisex, Alex? Io no, sì, sono bisex. Oddio, sono più per la cicala. Però, arriva. Guarda, oggi pomeriggio è arrivato nell'elettrauto di Pontedera. È un bel ragazzo. Insomma, io mi ero tutto sistemato, e tacco, la calza. Insomma, ho fatto la mia porca figura. 30 euro e. Ma è vero che mancano gli attori? Preso bene, dai. Ma è vero che mancano gli attori ormai? Cioè uomini invece di donne, diciamo di casalinghe o gente di strada? Maiale se le casalinghe ce ne tante. Ragazzi ce ne tanti, ma non funziona, non funziona. Non funzionano, Beh, manco con le pilloline, no? Vabbè, io pidi Viagra da mezzo chilo, perché ormai insomma è tanti anni faccio questo lavoro. Questi vogliono farli splendide, lì che... Li viene lì per lì duro e poi PEM li va giù. Buonasera. Casalinga si incazza, capisci? Ma hai ragione, Vabbè, lezione numero 2 di Alex Magni. Alex, un abbraccio, a presto. Ciao, ciao caro. Ciao. Arrivederci. Seconda lezione del professor Sire Alex Magni. Seconda lezione. Questi qua non sono come quei corsi che vengono fatti dalla De Agostini ogni tanto, no? Lezione di inglese, di spagnolo, uno, due. Non credo che il sole le allegherà nei fascicoli. Tu lo sai uno degli attori di Alex Magni come si chiama? Si chiama Stecco Ducale. Stecco Ducale. Ho capito. È un ambiente curioso quello, no? È una compagnia di. Ma è l'Italia. È una parte dell'Italia. Non è esattamente l'Italia adesso. Oggi Parenzo sei al top che non si sente proprio una mazza oggi. Stefano da Firenze, oggi proprio non si sente un cazzo. Siamo tornati agli anni 60, 70, ma nemmeno, facevano la radio meglio forse. Stefano da Firenze, dai. Talmente abituato allo studio. Stefano da Firenze, non sono talmente tranquillo che guarda, incazzarmi non è manco il caso. Stefano, abituato allo studio. Stefano, la voce non c'è. Dimmi Stefano, dimmi. Se quel comunista smette di parlare, prova di dire. Dimmi, starnuti, di gente che tossisce in diretta, non si sente in cazzo, tutto vabbè, così, vabbè, ma che ce frega? Ascolta, cerco di essere brevissimo. Allora, Renzi a me piace perché ha distrutto i rimasugli archeologici della sinistra. Però dicevo, su Marino sarà un incapace, e sicuramente lo è, però saranno altrettanto incapaci chi lo ha presentato del PD a Roma. E poi ho una ricetta per l'Italia, nemmeno per Roma. Se a un presidente di regione o a un sindaco italiano gli dai 4.000-5.000 euro al mese, e ai consiglieri regionali e ai consiglieri comunali al massimo gli dai 2.500 euro, vedrai che tanta gente non va più a far politica, perché qui ci stanno bleffando sul fatto che chi fanno i politici sono persone del bene comune. Se dai per gli stipendi, vedrai quanta gente in meno va in politica. Per va me bene. È una ricetta semplice ma importante, rifletteteci. Ciao capo, ciao ragazzi, ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte il giorno. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.